Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi cominciamo con un tema al quale siete sicuramente sensibili, altrimenti non sareste sintonizzati su questa trasmissione, la lettura. E vi propongo quindi la storia della lettura, scritta da uno scrittore argentino, Alberto Manguel, che viene riproposta da Feltrinelli nella traduzione di Gianni Guadalupi, 310 pagine, 18 euro. Questo libro inizia con una descrizione del rapporto tra l'autore e i libri e delle scoperte che questo rapporto gli ha consentito. Manguel ritiene che i governi totalitari hanno paura della lettura, ma non soltanto i governi totalitari. I lettori, scrive, sono malvisti nei cortili delle scuole, nelle stanze chiuse, quanto negli uffici statali e nelle prigioni. Quasi ovunque la comunità dei lettori gode di un'ambigua reputazione che le deriva, scrive, dall'autorità acquisita, dalla percezione del suo potere. Colui che legge è riconosciuto come un sapiente, ma il suo rapporto col libro è considerato anche sdegnosamente esclusivo ed escludente. Noi sappiamo bene che non è così, anzi, leggere significa ricevere ed aprirsi, ma il rapporto fra la lettura e chi legge è un rapporto complesso, al punto, dice Manguel, che dobbiamo ancora imparare noi lettori di oggi che cosa sia la lettura. Facciamoci spiegare dall'autore quindi a che cosa serva ricostruire questa storia, la storia della lettura. Buongiorno ad Alberto Manguel. Buongiorno. Signor Manguel, vorrei cominciare da una figura milanese, Sant'Ambrogio, che come lei ricorda nel suo libro è stato il primo che leggeva in silenzio. Come ha cambiato questa innovazione, il rapporto con il lettore? Dobbiamo dire che Sant'Ambrogio non è stato forse il primo a leggere in silenzio, ma è stato il primo a essere descritto come qualcuno che legge in silenzio da Sant'Agostino. E è vero che questa forma di leggere in silenzio è stata rivoluzionaria, perché da prima, quando leggevamo a voce alta, era una lettura quasi pubblica, voglio dire, non era che si possa capire quando leggevamo così, ma non avevamo la sensazione di essere da soli. Invece con la lettura silenziosa la lettura diventa uno dei atti più intimi, più personali, più segreti. E con questa lettura silenziosa nacque la possibilità dell'eresia, del pensiero subversivo, di quel rapporto quasi erotico che ha il lettore con il suo libro. E infatti lei a un certo punto dedica una parte di questo libro ai poteri del lettore e sottolinea come, leggo dal suo libro, creando il ruolo del lettore, lo scrittore decreta anche la propria morte, perché una volta finita la scrittura del testo, lo scrittore può ritirarsi, può cessare di esistere. Questo è qualcosa che mi aveva sorpreso quando ho cominciato a scrivere questo libro, adesso da tanti anni, il fatto che noi lettori crediamo ancora che la storia della letteratura, la storia del libro, è fatta solo dai autori, di quello che creano gli opere. Invece il vero potere è nostro, è quello dei lettori, perché siamo noi che decidiamo se un'opera rimane o no, se un'opera viene dimenticata o no. E questo potere è grandissimo, perché ogni autore gli piacerebbe che la sua opera diventa un classico. Invece noi lettori diciamo a questa sì e a tante altre no. In un suo libro precedentemente pubblicato in Italia, Al tavolo del cappellaio matto, lei faceva un ritratto del lettore ideale. Com'è il lettore ideale, secondo Manguel? Il lettore ideale è tante cose. Io ho voluto con questo ritratto fare un commentario di questo che facciamo quando leggiamo, ma il lettore ideale infatti non esiste. Ciascuno di noi può essere il lettore ideale di un certo libro. Non è che ogni libro viene creato creato per ogni lettore, è un po' come i rapporti tra le persone. Ci sono de gente con cui noi ci intendiamo, de gente che ci piace, de gente che non ci piace, lo stesso con il libro. È certo che c'è un libro per ogni lettore, un lettore per ogni libro, ma non tutte le opere sono per tutti i lettori. Ricordiamo per esempio che per Tolstoi il King Lear di Shakespeare è un'opera minore e cattiva. Senta, lei sta esplorando questo tema della lettura da molti anni, ormai direi da più di 10 anni. Ecco, che idea si è fatta sul futuro del libro? Il libro si dice che è un oggetto destinato a entrare in crisi, che i giovani non leggono più. Ecco, lei che futuro predice al libro? Già Marziale diceva nel primo secolo che i giovani non leggono più. E non c'era la radio ai suoi tempi. E non c'era la radio, ma c'era il circo, per esempio. Ma è vero che si dice molto che c'è una crisi del libro, che c'è l'apocalisse della lettura, che non si leggerà più e che di qui in poi ci sarà solo l'oggetto elettronico, la lettura elettronica. Io credo che ogni volta che capite una nuova tecnologia, questa tecnologia sembra dire che la tecnologia precedente è morta. Invece non è mai così. La nuova tecnologia prende il vocabolario della tecnologia precedente e la tecnologia precedente si rinnova della nuova tecnologia. Questo è successo per esempio con la fotografia e la pittura, con il video, il cinema, il teatro. Ogni volta succede questo rinnovo di un altro strumento di creatività. E io credo che adesso è molto importante da ricordarsi che la tecnologia elettronica è solo una forma in più da avere il testo da leggere. Dunque possiamo leggere in un ebook, possiamo leggere in un computer, ma non dimenticare che ancora possiamo leggere in un libro. Io credo che questo libro rimangherà, perché il libro, il codex che abbiamo creato, è uno degli oggetti più perfetti che abbiamo fatto di tutta questa storia. Non c'è dubbio. Complimenti per il suo italiano. Lei cosa legge più volentieri di italiano? Cosa leggo in italiano più volentieri? I classici certamente, Pavese, Pasolini, Pratolini, anche per rimanere in Le Pepe, che era un grande eroe della mia adolescenza. Ma adesso anche, non so, Milena Agus è qualcuno che mi piace. Ho letto adesso Veronese, che mi è piaciuto molto, non so, Roberto Calas, un grande eroe per me, e così via. Bene, grazie ad Alberto Manghel, arrivederla. Arrivederla. Il libro al quale facevo riferimento nell'intervista è Al tavolo del cappellaio matto, che è stato pubblicato da Archinto, 326 pagine, 20 euro, ed è tradotto da Ilaria Rizzuto e Barbara Cavallero. Una raccolta di saggi brevi, che è un genere nel quale Manghel eccelle, che hanno come elemento comune la follia, rappresentato dal cappellaio matto di Alice nel Paese delle Meraviglie. Una follia intesa come un sistema di convenzioni che, per quanto folle, ha una base logica, un sistema di regole che spesso sono esse stesse assurde. E allora nelle categorie del folle di Manghel rientrano individui penosamente reali, scrive, gli eredi di Cortés, che riducono tutta la creazione a bastoni e pietre, i mercanti, per cui l'unica misura del valore è quella del profitto finanziario, i catechisti, per cui l'arte non è un dialogo, uno scambio di domande, ma una serie di risposte ingenue e opprimenti, gli stracivendoli, che sanno trasformare tutto in un bene smerciabile, i filosofi, che per motivi personali o in nome di idee astratte di giustizia portano argomenti a favore di chi è al potere e false giustificazioni, gli egoisti, che sotto la protezione della libertà civile credono che la tolleranza sia una virtù che tiene conto della distinzione tra quelli in alto e quelli in basso, i propagandisti di trite virtù e i creatori di falsi bisogni, i rivoluzionari per cui non può esservi purificazione senza distruzione, i capi religiosi che credono che la divinità abbia concesso alla loro chiesa nessun'altra grazia e illuminazione, i leader politici per cui ricchezza e potere sono prova di rettitudine e autorità morale. E sempre Archinto, più di recente, ha pubblicato ancora di Manghel un'altra più smilza raccolta di saggi, il libro degli elogi, 92 pagine, 12 euro, tradotto da Glauco Felici, nel quale troviamo l'elogio della Bibbia, del libro tascabile, del libraio, della fiera del libro, dell'orrore, dei racconti per bambini, del piacere del regalo, della lingua spagnola, degli animali e dell'impossibile. E dall'elogio della fiera del libro vi propongo alcune righe che ci riportano proprio all'oggetto che alimenta la passione condivisa, il libro. La più antica delle fiere ancora oggi attiva è la Fiera del Libro di Francoforte. La fiera, come diceva Victor Gollancz, delle grandi bugie e dei piccoli affari. Alle origini era una fiera agricola. Ma sapendo che si può vendere di tutto, i mercanti di polli, vino e ortaggi, agli albori del XV secolo, fecero spazio ai venditori di carte e pergamene. Il 12 marzo 1455, misteriosamente conosciamo la data, Enea Silvio Piccolomini, inviato dal cardinale de Carvajal alla fiera di Francoforte, scriveva a sua eminenza a proposito di un nuovo prodotto sul mercato. Si trattava di un certo numero di fascicoletti di 5 pagine di diversi libri della Bibbia, in lettere molto chiare e nitide, senza nessun errore, e che sua eminenza avrebbe potuto leggere senza sforzo e senza occhiali. Piccolomini avrebbe voluto comperare una di quelle meravigliose Bibbie per il suo cardinale, ma non fu possibile. Ancora prima che i libri fossero terminati, vi erano già clienti pronti a comperarli. Lo straordinario creatore di quelle Bibbie si chiamava Gens Fleisch zur Laden zum Gutenberg. Con il senso pratico del mondo del commercio, lo semplificò in Johannes Gutenberg. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Come sapete, tra pochi giorni l'Italia ospita il G8 che si svolgerà all'Aquila, un appuntamento importante. Auguriamo buon lavoro agli statisti che si ritrovano lì. Non sappiamo ancora se questo incontro entrerà nella storia. Il G8 ormai è diventato un appuntamento, se non di routine, certo abbastanza consuetudinario. E invece ci sono degli incontri al vertice che sono effettivamente diventati parte della storia del mondo. Ce li descrive il libro di David Reynolds, che è uno storico di Cambridge, Summit. I 6 incontri che hanno segnato il XX secolo. È pubblicato da Corbaccio, 576 pagine, costa 26 euro, nella traduzione di Francesco Zago. Quali sono questi 6 incontri storici? Quello di Monaco del 1938 tra Chamberlain e Hitler, e poi Yalta nel 1945, Churchill, Roosevelt, Stalin, a Vienna nel 61 fra Kennedy e Khrushchev, a Mosca nel 72 fra Brezhnev e Nixon, a Camp David nel 78 tra Begin, Carter e Sadat, e infine a Ginevra nel 1985 tra Gorbaciov e Reagan. E di questi incontri possiamo appunto leggere la ricostruzione e capire le ragioni della loro importanza. Ma innanzitutto, perché questi summit si chiamano così? Perché la parola vertice? Perché questo parallelo con la montagna? Spiega lo storico che fu Churchill a inventare questa immagine negli anni 50, quando il mondo era sotto l'emozione dei tentativi per conquistare l'Everest, che poi ebbero successo appunto nel 1953. E secondo lo storico, questi summit condividono in qualche misura lo sforzo che deve fare lo scalatore, e cioè, scrive, arrampicare fino in vetta, partecipare a un incontro e infine ridiscendere. Anche a Reynolds, anche il politico in questo senso sembra presentarsi come un alpinista, e osserveremo nel libro, scrive, se questi esseri umani, i diplomatici che preparano gli incontri e i politici che ne sono i protagonisti, hanno fatto la storia o se al contrario sono state vittime più o meno inconsapevoli delle circostanze. Le categorie di questi incontri sono 3, quelli nei quali ci si incontra tête à tête, come appunto Chamberlain con Hitler, i summit plenari nei quali invece la delegazione è più ampia, ci sono consiglieri specializzati e si cerca di risolvere problemi sostanziali come per esempio Camp David per risolvere i problemi del Medio Oriente, e poi ci sono i Progressive Summit che coinvolgono elementi personali e plenari ma nei quali l'incontro viene visto, scrive Reynolds, come parte di una serie, e tra questi naturalmente dobbiamo mettere anche appunto i G7 diventati poi G8 e NATO G4, e l'ultimo capitolo di questo libro ripercorre appunto la storia dei vertici contemporanei, tra i quali appunto il G8 che nacque nel 1975 come incontro a quattro per volontà del presidente della Repubblica francese Valéry Giscard d'Estaing, che organizzò un incontro molto informale a Rambouillet. Da allora le cose sono cambiate moltissimo, perché quello che appunto era un circolo molto ristretto fra quattro persone che erano o fingevano di essere amiche, appuntamenti, scrive, condotti in modo informale senza un rigido ordine del giorno, schiere di funzionari e giornalisti allo scopo di promuovere l'intesa tra i capi di governo più importanti, ecco, quel tipo di incontro invece ha dato spazio a quelli di oggi, che sono quasi dei circhi Barnum per il numero di persone che vi partecipano e che partecipano soprattutto alla preparazione. Ma non c'è solo il G8 nei vertici di oggi, e appunto abbiamo in questo libro descritti altri incontri che sono importanti, anche incontri a due che rischiano di nuovo di aver fatto la storia. Per esempio Reynolds, essendo inglese, si sofferma sui vertici tra Bush e Blair che rafforzarono la decisione di Blair di partecipare alla guerra in Iraq. I vertici internazionali naturalmente sono il trionfo della diplomazia, almeno speriamo, e allora vi segnalo alcuni titoli che per curiosa coincidenza riguardano proprio questa professione un po' misteriosa, un po' anche poco considerata dal grande pubblico, ma che può riservare molte sorprese anche per qualche piccola e curiosa avventura che ancora ai giorni nostri possono capitare ai diplomatici di oggi. Cominciamo con uno dei diplomatici italiani più illustri, Manlio Brosio, che fu anche un illustre uomo politico, partecipò ai primissimi governi del dopo fascismo, fu vicepresidente per i liberali Comparri e poi fu ambasciatore nelle sedi più prestigiose, Mosca, Londra, e in quel periodo anzi ci fu proprio il ritorno di Trieste all'Italia propiziata dalla missione di Brosio a Londra e poi Washington. Infine Brosio fu segretario generale della NATO fra il 1964 e il 1971, e di lui adesso escono i diari da Washington, sono pubblicati dal Mulino, considerano il periodo 1955-61, sono curati da Umberto Gentiloni Silveri, 624 pagine, 46 euro, un documento molto importante perché ritroviamo qui gli appunti personali di Brosio che aprono uno squarcio importante sulla politica internazionale di quegli anni, ma anche sulla politica italiana, su molti protagonisti nostri, italiani che andavano negli Stati Uniti e che Brosio conosce o comunque frequenta da vicino, e anche molti giudizi sugli uomini politici americani di quegli anni. Per esempio ci sono dei giudizi assai poco lusinghieri su Kennedy, nei confronti dei quali almeno all'inizio Brosio non manifestò un entusiasmo eccessivo. Contemporaneo a Brosio è Tommaso Gallarati Scotti, questo invece milanese, mentre Brosio era torinese, di ispirazione liberal cattolica, che fu il primo ambasciatore dell'Italia democratica a Londra tra il 1947 e il 1951, dove precedette appunto Brosio. E anche di Gallarati Scotti viene pubblicato il diario del periodo 1943-51, sotto il titolo Memorie riservate di un ambasciatore, sono curate queste memorie da Nino Del Bianco, Franco Angeli, 160 pagine, 19 euro. Anche questo libro ci dà l'opportunità di avvicinarci ai diari di questo protagonista della diplomazia italiana in un periodo così delicato. E infatti Gallarati Scotti ci dà una cronaca molto interessante, ma anche intessuta di molte notazioni personali, in particolare per esempio del periodo in cui fu ambasciatore a Madrid. Poi Gallarati Scotti va a Roma, dove partecipa al clima del referendum, lui è monarchico e si scontra, o comunque ha delle polemiche su questo punto invece, con Brosio, che era liberale e repubblicano. A Londra la sua missione sarà particolarmente importante perché sarà proprio lui che riuscirà a ricreare un clima di simpatia e di comprensione verso l'Italia, che era appena uscito dalla belligeranza con il Regno Unito. Ha un titolo molto simile, cambia solo una parola, è quello di Vittorio Cordero di Montezemolo, Memorie semiserie di un ambasciatore, che è pubblicato da Rubbettino. Cordero di Montezemolo è stato ambasciatore in sedi delicate, quali Israele, la Santa Sede, è stato rappresentante a Ginevra presso le Nazioni Unite. Questo libro non raccoglie degli appunti, ma ci dà un testo compiuto e organico, scritto con grande ironia, che permette di sdrammatizzare anche i momenti più difficili, per esempio quello di come evitare l'imbarazzo di un incontro ufficiale tra il diplomatico che è console generale a New York e l'ex re Umberto, in una cerimonia appunto ufficiale che si sarebbe risolta, nel caso ci fosse stato questo incontro, in una notevole gaffe diplomatica, una situazione della quale Cordero di Montezemolo esce con astuzia ed eleganza. E pure ambasciatore a Londra in anni successivi fu Roberto Ducci, uno dei più importanti diplomatici di carriera italiani, morì nel 1985, di cui Le Lettere pubblica una breve avventura significativa per far cogliere anche alcune caratteristiche meno note del lavoro dei diplomatici. Il libro si intitola Due valigie di dollari, 86 pagine, 9 euro, e descrive l'avventura di questo giovanissimo diplomatico italiano che nel 1940 si trova come console in una città degli Stati Uniti e da lì viene richiamato assieme a un altro coetaneo per una misteriosa missione che consisterà nel trasferire da New York a Rio de Janeiro due valigioni contenente $1,5 milioni da mettere in salvo in vista dell'inizio della guerra. Un'avventura del tutto inutile perché i soldi saranno poi sequestrati dal governo argentino quando la guerra inizierà davvero. E a questo punto il confettino. Vi propongo un libro che permette di ricostruire la storia delle famiglie. Cercasi antenato, come diventare detective di famiglia e scoprire il tuo albero genealogico. È di Lorenza Cingoli e Niccolò Barbero, è pubblicato da San Paolo, 160 pagine, 17 euro. È un libro divertente, documentato, illustratissimo, che ci aiuta a costruire appunto la storia della nostra famiglia, interrogando, rimestando nei vecchi bauli, trovando qualche elemento che ci possono permettere di ricostruire le storie di nonni e zii. E con questo ringrazio Daniele Casagrande e Vittorio Mussini in redazione, Filippo Aureggi in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it. Passo la linea respiro. A voi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.